È successo a Nice, a Nizza, in Francia. C'era una studentessa che studiava nella università di Nizza e partecipava anche alle lezioni di Torah nel Beit Chabad. In una delle lezioni, durante una delle lezioni, stiamo parlando di circa una trentina d'anni fa, il Rav parlò dell'importanza della mezuzah, la mitzvah della mezuzah, l'importanza di avere la mezuzah sulla porta, su tutte le porte. E questa studentessa ha preso a cuore la lezione. Fino a quel momento non aveva una mezuzah. Si fece dare una mezuzah, acquistò una mezuzah e la mise sullo stipite della sua porta dell'appartamento. Poi passò un po' di tempo, qualche settimana, forse qualche mese. E chiunque la veniva a trovare tra gli amici, eccetera, nell'ambiente sociale che frequentava, iniziavano a mettere un po' di pressione su di lei. Ma non è così bello, non è così sicuro, ci sono molti vicini non ebrei, potrebbe dare negli occhi, eccetera, eccetera. Allora lei tolse la mezusà. L'indomani, il giorno dopo che tolse la mezusà, dallo stipite della porta principale dell'appartamento, sente un bussare alla porta. Apre la porta e trova davanti a sé un uomo anziano che riconosceva come uno degli inquilini del condominio in cui abitava. Gli sembrava che fosse un inquilino del quarto piano. E lui molto gentilmente chiede: "Cos'è successo alla mezusà?" E lei, meravigliandosi, ha chiesto a lui: perché fai questa domanda?" E lui ha detto: "Guarda, io vengo dalla Polonia, ho perso tutta la mia famiglia ad Auschwitz e da allora non ho nessun legame con il popolo ebraico. Qualche giorno fa, come hai visto, c'è stato un guasto. Un guasto dell'ascensore nel condominio e io sono dovuto salire a piedi ogni volta fino al quarto piano. E quando passavo il tuo appartamento, vedevo la mezusà e sono 30 anni che non vedo una mezusà. La mezusà mi ha fatto tornare indietro nel tempo alla casa della mia famiglia, alla mia infanzia. E mi ricordo come la mamma mi alzava la sera prima di andare a dormire o prima di uscire da casa per baciare la mezusà. Ho deciso di non prendere più l'ascensore anche dopo che era stato riaggiustato e di passare ogni giorno almeno una volta davanti alla tua porta per baciare la mezusà. Ed ecco, sono passato oggi e non c'è più." La studentessa a questo punto già aveva le lacrime agli occhi. E senza rispondere, senza parole, riprese la mezusà e decise di non pensare alla pressione sociale e al pensiero delle altre persone, e rimise subito insieme all'anziano la mezusà sulla porta. Perché vi racconto questa storia questa settimana? Perché noi leggiamo nella parashah di questa settimana una delle ennesime situazioni in cui qualcuno cercò di annientare il popolo ebraico. Questa volta però in maniera non convenzionale. Troviamo un re non molto potente che si trova davanti al popolo ebraico, che in realtà in quella situazione non avevano nessun interesse a lottare con lui, ma lui, impaurito, vedendo i potenti re della zona caduti davanti alle vittorie del popolo ebraico, vuole fermarli in qualche maniera. Sa di non poterlo fare a livello militare e crede di poterlo fare in una maniera mistica, in una maniera magica, in una maniera profetica, interpellando il profeta Bil'am. Il re si chiamava Balak. Nelle profezie però del profeta Bil'am troviamo le più grandi e belle benedizioni per il popolo ebraico. Tra cui troviamo il versetto che dice: "A nome di Bilam, il popolo", riferendosi al popolo ebraico, in maniera poetica, il popolo che si accovaccia come un leone, ma poi si accovaccia come un leone, chi lo potrà mai far alzare? Cosa significa? Il Midrash spiega che queste parole si riferiscono al periodo in cui il popolo ebraico non è forte, in cui il popolo ebraico è esiliato. Ed è come se fosse però, dice la profezia, un leone accovacciato. Questo significa che un leone normalmente con la sua stessa presenza, con la mera presenza, mette paura, perché è fiero della propria posizione, è fermo nella propria, nel proprio modo di agire, nel proprio modo di, proprio di essere. Quando il leone però si mette tutto accovacciato, sdraiato per terra, potrebbe sembrare che il leone diventi docile, forse debole, forse stanco, non sembra più lo stesso forte leone che vediamo normalmente. Allora Bilam vede il popolo ebraico e dice, anche quando si trova in una situazione di debolezza, anche quando non è nel suo posto, nel suo habitat naturale, è comunque un leone. Comunque nessuno lo può muovere. Si può alzare in qualsiasi momento e dimostrare di non essere sottomesso ad altre realtà per ciò che riguarda il proprio ebraismo. Il proprio ebraismo dell'ebreo è intoccabile. È particolarmente importante questo messaggio in questi giorni, perché, come vedete anche nella foto che invio, di un grande maestro, il Rebbe Yosef Yitzhak, che è stato il sesto Rebbe di Lubavitch, visse dal 1880 al 1950, e questa settimana abbiamo segnato nei giorni 12 e 13 Tammuz, che è oggi, una sua festa, che però è stata la festa, una liberazione per l'ebraismo, perché era stato preso e imprigionato dai bolscevichi, dai comunisti, proprio per il suo lavoro per l'ebraismo in periodo in cui era vietato nell'Unione Sovietica. Ma questo non ruppe il suo spirito e rimase fermo come un leone per la Torah e per le mitzvot. Lui disse in un certo momento di quel periodo, ad alcuni che lo ascoltavano, disse: è solamente il nostro corpo che è stato sottomesso all'esilio, ma l'anima dentro di noi non è mai stata mandata in esilio. Lo spirito ebraico non lo si può incatenare. E questo davvero è un messaggio che è sempre rilevante. È rilevante oggi, quando ci troviamo davanti a diversi tipi di minacce per la continuità ebraica, come può essere la mancanza di educazione ebraica, la mancanza di conoscenza della Torah, delle mitzvot, l'assimilazione negli altri popoli, eccetera, eccetera. Tutto ciò partendo da un punto di vista che si tratta di un leone, si tratta di qualcuno che sa quello che è, che non si vergogna di quello che è e che rimane fermo nei propri principi e nelle proprie convinzioni. Questa è la maniera di portare avanti verso la prossima generazione. Vi auguro Shabbat Shalom.